guadagnano in media 13.000 euro netti l'anno, meno di un operaio specializzato. Questo lo stipendio degli affittacamere, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze e del Ministero dell'Economia diffusi di recente. Adesso, per scovare quelli che evadono il fisco, c'è uno strumento in più. Dopo il farinometro e il tovagliometro, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo anche il lenzuolometro, cioè l'accertamento induttivo a carico dei titolari di bed and breakfast o di camere in affitto, basandosi sull'acquisto che questi fanno di biancheria. In pratica, se un affittacamere compra una montagna di lenzuola e poi dichiara corrispettivi irrisori, è legittimo che il fisco possa avere qualche sospetto. Il meccanismo quindi è simile a quello che spinge a controllare il panettiere che dichiara poco ma compra molta farina, o il ristoratore che denuncia cifre irrisorie nel 730 ma manda in lavanderia centinaia di tovaglioli ogni giorno. D'altra parte, non pochi affittacamere nei luoghi di vacanza offrono alloggio senza rilasciare poi ricevuta. L'ultimo caso in ordine di tempo scoperto dalle Fiamme Gialle è venuto alla luce pochi giorni fa e riguarda due titolari di bed and breakfast a Lecce. Operavano in nero e avevano omesso di dichiarare redditi per un ammontare di circa 40.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.